Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Roadless Whiskey for Breakfast. Come si chiamava questa canzone? Questa era Seeker of Gold. Quali saranno ora gli obiettivi della band per il futuro? Abbiamo già in cantiere un album che vogliamo far uscire nel 2012. Ci saranno pezzi più adrenalinici, più carichi. Ci stiamo mettendo tutto il cuore. E poi stiamo per far uscire invece un videoclip del singolo Lucky, che uscirà nei prossimi giorni, la prossima settimana. Quindi sarà anche disponibile su YouTube? Beh, sicuramente. Adesso stiamo cercando il circuito per farlo uscire, però anche su YouTube arriverà. Prossima canzone? La prossima canzone è Lucky, appunto la canzone del videoclip. Il tempo come sempre vola, noi siamo quasi in chiusura di puntata. A voi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il Media Player. Un grazie a Roadless per la partecipazione, a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Sì, allora se volete scriverci qualcosa, noi abbiamo un sito email che è theroadlessitaly@gmail.com. Inoltre ci trovate sul MySpace, su Facebook, ci aggiungete agli amici, e su YouTube trovate il live delle nostre canzoni e i brani del CD. Inoltre se volete acquistare il CD online, siamo su Atomic Stuff e su iTunes in offerta lancia a 3,99€, oppure potete scaricare il brano singolarmente. Se invece avete voglia di venire a trovarci e fare due chiacchiere con noi a comprare il CD da noi. Suoniamo il 28 ottobre a San Floriano, il 31 ottobre ai Quattro Volti a Mezzane, il 19 novembre a Negrar allo Stub Lorenzi Wirth, il 7 dicembre alla Corte di Cogollo e il 26 dicembre a Tragnago al Sottosopra. Brano per chiudere questa serata? Allora, l'ultimo brano ve lo presento io, ringraziando Gianluca e Radio RCS. Il brano si intitola Whiskey for Breakfast. Gianluca e Leo Rodgers vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana quando avremo ospite J.C. Sinel, chitarrista Southern Rock piacentino, che ci presenterà il suo lavoro solista dal titolo Light of New Sun. Ciao!